Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Non lo sa che per un uomo essere ricco è come per una donna essere bella? Magari una ragazza non si sposerà solo perché è bella, ma santo cielo, non è una dote? E se avrebbe una figlia, sarebbe contento che sposerebbe uno spiantato? Ma io... Vorrebbe che avesse le cose più belle del mondo e che sarebbe tanto felice. Beh, che c'è di male se io voglio queste cose? Beh, glielo concedo. Ah, ma avevano detto che era cretina, a me non sembra cretina davvero. Divento intelligente quando mi serve, ma al più degli uomini non piace. Chi l'ha detto che una donna bella non può essere intelligente o che le donne divertenti sono per lo più bruttine? Senza dubbio, lo stereotipo ha fatto la fortuna della bionda e svampita Marilyn Monroe, che in realtà ha sempre saputo giocarsi benissimo le sue carte. Fino alla fine dell'Ottocento, e in gran parte anche nel Novecento, le donne sono state relegate ai margini della cultura per via di una differenziazione dei compiti che le ha portate, loro malgrado, a dedicarsi soltanto alla cura dei figli e della casa. Non a caso, per secoli, sono stati i conventi gli unici istituti di alta formazione femminile, e la storia ha fatto emergere umaniste, pittrici, scrittrici, poetesse, ma molto più raramente scienziate, che necessitano una preparazione solida e specifica senza la quale è impossibile progredire. Di qui il pregiudizio secondo cui le donne sarebbero più adatte alle materie letterarie e linguistiche che non a quelle scientifiche. Non per una reale inattitudine, ma per una mancanza di accesso all'istruzione. Nonostante tutte queste difficoltà, la testimonianza di alcune menti brillanti è arrivata fino a noi, a partire dalla figura della matematica Ipazia, figlia del matematico e filosofo Teone, che nel IV secolo d.C. diventa capo di una scuola platonica di Alessandria d'Egitto, frequentata da molti giovani. La sua storia, che culmina con una barbara morte per mano di fanatici cristiani, viene raccontata dal film Agorà di Alejandro Amenábar. Aspasio, prova a immaginare che questa sia la Terra e che quelle due fiamme rappresentino le due posizioni estreme del Sole rispetto ad essa, d'inverno ed estate. Beh, che cosa accadrebbe se tutte e due le posizioni fossero i due centri di un medesimo cerchio? Ma non è possibile, padrone. No, aspetta, cosa sappiamo del cerchio? Che il centro del cerchio è sempre alla stessa distanza da ogni punto del perimetro. Esatto. Esatto, e che succede se divido quel centro in due? Ma ciò che mantengo costante è la somma delle loro distanze dal perimetro. Dopo secoli di buio, nei quali non c'è traccia di scienziate, nel 1700 Maria Gaetana Agnesi è la prima donna a essere chiamata a ricoprire una cattedra universitaria all'Università di Bologna, mentre poco dopo Sophie Germain è riconosciuta come esperta di teoria dei numeri e di fisica. Nel XIX secolo sono molte le grandi matematiche, fra cui Emmy Noether, la fondatrice dell'algebra moderna. Marie Curie prende addirittura due premi Nobel, per la fisica nel 1903 e per la chimica nel 1911. Mentre a Lise Meitner, anche lei Nobel nel 1935, dobbiamo la scoperta del fenomeno della fissione nucleare. Caroline Herschel si dedica allo studio del cielo, mentre il celebre osservatorio Mitchell deve il suo nome a Maria, astronoma americana. Senza naturalmente dimenticare Rita Levi Montalcini, Nobel per la medicina nel 1986. La storia che raccontiamo oggi a Destini Incrociati è quella di una donna che è riuscita a raggiungere due primati apparentemente inconciliabili all'interno della stessa vita. Attrice bellissima e geniale scienziata, il suo nome è Hedwig Eva Maria Kiesler, ma al mondo è conosciuta come Hedy Lamarr. Hedy Lamarr. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Ich bin die Fische Lola, ich lieb ein jeder Mann. Doch an mein Pianola, da lass ich keinen ran. Ich bin die Fische Lola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Da will mich wer begleiten, da unten auf dem Saal. Dem hau ich in die Seiten und freu dem auf Pedal. Lola, Lola, jeder weiß, wer ich bin. Sieht man nur nach mir hin, schon verwirrt sich der Sinn. Männer, Männer, keinen Küssen. Jena Klavier, sing die Teil nicht mehr. Ich bin die fesche Lola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Ich bin die fesche Lola, mich liebt ein jeder Mann. Doch an mein Pianola, da lass ich keinen ran. Ich bin die fesche Lola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Doch will mich wer begleiten, sei unten aus dem Saal. Dem hau ich in die Seiten und tritt ihm aufs Pedal. Quando Hedy Lamarr viene alla luce a Vienna il 9 novembre del 1914, l'Austria ha da poco dichiarato guerra alla Serbia, facendo così esplodere la scintilla della Prima Guerra Mondiale. La sua famiglia, ebraica e facoltosa, vive nell'elegante 19° distretto. Papà Emil, di origini ucraine, è un dirigente di banca, mentre mamma Gertrude è cresciuta tra la borghesia colta di Budapest. Entrambi, che adorano la figlia, si dedicano a lei appena possono, tra letture di favole davanti al camino e viaggi nella campagna inglese, in Irlanda, sulle Alpi svizzere e a Parigi. Hedy è una bambina intraprendente e brillante, che grazie a un'educazione raffinata acquisisce presto la passione per il teatro e per l'arte. Nella sua grande casa, circondata da mobili preziosi e dall'attenzione dei grandi, servitù inclusa, si diverte a improvvisare storie che ha sentito, che inventa lei stessa, usando ciò che trova come fosse un oggetto di scena. Quando ha soltanto 12 anni, con una vanità tutta femminile e un certo gusto per la provocazione, partecipa di nascosto a un concorso di bellezza. Il suo viso perfetto e gli occhi verdi da gatta la fanno arrivare prima e con i soldi vinti si compra una pelliccia. Nel frattempo, precoce in tutto, scopre il piacere della seduzione e l'amore per il cinema, vedendo il capolavoro dell'espressionismo tedesco diretto da Fritz Lang, Metropolis. Prologo, intermezzo, furioso. È concepita come un'imponente opera musicale, Metropolis, di Fritz Lang, realizzato dal regista austriaco nel 1927. Metropolis è moderna anche nel contenuto. Se è vero che la denuncia fra le differenze di classe aveva particolare ragione nel passato, è anche vero che rimane attuale il messaggio del collasso inevitabile di una società basata sulle ingiustizie e sullo sfruttamento dei più deboli e più poveri per la ricerca del benessere effimero di pochi. L'uscita del film, tanto innovativo quanto profetico, sembra annunciare la terribile crisi economica in arrivo. È il 1929 e il mondo è in ginocchio. Hedy, ragazzina agiata e senza pensieri, se ne accorge relativamente. Continua a frequentare la scuola più un corso di recitazione. E un giorno, dopo esserci passata davanti mille volte, si decide finalmente a entrare nei Sascha Film Studios, la più grande casa di produzione austriaca. Ho sentito dire da un aiuto regista che cercavano una ragazza per una piccola parte di segretaria. Mi sono aggiunta all'elenco delle candidate e mi hanno presa. Mentre i genitori, pur controvoglia, la lasciano fare, sperando che cambi idea, Hedy debutta in Oro sulla strada. Pochi secondi, ma quanto basta per farle avere un ruolo anche in Tempesta in un bicchiere d'acqua. I rotocalchi dell'epoca incominciano a occuparsi di lei e pubblicano una foto con una didascalia che la descrive come giovane della buona società che vuole fare carriera nel cinema. La determinazione per farcela non le manca di certo. E unita a un fascino senza eguali, diventa una chiave per il suo successo. Quando Max Reinhardt, regista teatrale che ha lavorato con i più grandi, da Brecht a Pirandello, arriva in città per organizzare una commedia e per fare audizioni, la fila degli aspiranti attori è interminabile. Hedy, astutissima, grazie a un amico d'infanzia, si intrufola alle prove. La platea è vuota e ha così modo di attirare l'attenzione del maestro più di chiunque altro. Ottiene una parte per tutto il mese di repliche, grazie alla quale si sparge la voce di quanto sia bella questa giovane viennese. Ma siccome non è un'ingenua, capisce che per sfondare davvero bisogna trasferirsi a Berlino. Sapevo di avere tutte le carte in regola per sfondare, ma dovevo diventare più brava. E per farlo Vienna non bastava più. Il vero centro dello spettacolo europeo in quel periodo era a Berlino. E non a caso Reinhardt lavorava soprattutto lì. La Berlino del 1931, nonostante le sue notti folli e l'aria di libertà che attira artisti da tutto il mondo, si sta preparando al periodo più nero della sua storia, il nazismo e l'ascesa al potere di Hitler. Eddie frequenta il bel mondo, i registi, gli attori, gli scrittori, e riesce, seguendo i corsi di Reinhard, a conquistare qualche altra piccola parte in quelli che sono tra i primi esperimenti di film sonori. La giovane viennese porta sullo schermo un fascino sfrontato, ma piuttosto androgino. Seno piccolo, figura slanciata, occhi magnetici. I critici la notano immediatamente, tanto che si comincia a parlare di lei perfino sul New York Times. Un famoso regista ceco, Gustav Machaty, che ha già lavorato a Hollywood come assistente di Griffith e di von Stroheim, la scrittura per il suo nuovo film, Ecstasy. La trama non potrebbe essere più lineare. Sposata con un uomo ricco, anziano, impotente e volgare, Eva torna alla fattoria del padre, dove a contatto con la natura incontaminata passa una notte d'amore con un giovane ingegnere. Ma poi, sconvolta dalla morte del marito suicida, abbandona l'amante. Eddie Lamar finalmente ha una parte da protagonista, ma in un film scandalo. Tra scene audaci e allusioni sessuali appare completamente svestita, diventando quindi il primo nudo integrale della storia del cinema. La censura se la prende anche con i fotogrammi in cui il suo volto è nell'estasi erotica che dà il titolo alla pellicola. Eddie, spinta dalla fame di successo, ha soltanto 17 anni. Ma accetta tutto, ben consapevole di una regola che, anche se ancora non era stata formulata dai pubblicitari, era già evidente. Bene o male, l'importante è che se ne parli. Vietato, riadattato nel finale, distribuito in più versioni a seconda del paese. Ma come è prevedibile, lo scandalo che si crea intorno a Ecstasy corrisponde a un enorme successo sia per il film che per la protagonista. Lo scrittore Henry Miller, grande fan, lo paragona all'amante di Lady Chatterley. Mussolini lo guarda e lo riguarda. E mentre la Chiesa lo bolla come pornografico, nel 1934 viene presentato anche a Venezia. Di certo, alla prima di Vienna, i genitori di Hedy la prendono malissimo. Io ero di fianco a loro. Non l'avevo ancora visto. Ricordo l'imbarazzo. Mio padre disse, andiamo via. E anche mia madre era arrabbiata. Parlavano di esposizione indecente e mi dicevano che non avrei mai più girato un film. E in quel momento lo pensavo anch'io. Ho aspettato una settimana prima di uscire di casa. Ma ormai Hedy è entrata nell'immaginario. Tutti, critici e spettatori, non riescono a togliersi dalla testa le immagini di quella bellezza innocente ma che travolge. Il mondo dello spettacolo le appartiene. E quando le propongono di interpretare la principessa Sissi a teatro, non sa dire di no. È qui che una sera, dietro le quinte, incontra per la prima volta il suo futuro marito, che da giorni le fa trovare fiori in camerino. Sui biglietti c'è scritto semplicemente Fritz Mandl. È uno dei maggiori mercanti d'armi degli anni 30. Ricchissimo, potente, ben inserito nell'elite che conta. La corteggia in un modo quasi dittatoriale, imponendole di rinunciare alla sua carriera, e lei, sedotta da lui e dal lusso che lo circonda, si converte anche al cattolicesimo per sposarlo nella meravigliosa Karlskirche, nel cuore di Vienna. Il matrimonio ha il sapore della prigione dorata. Mentre il marito padrone ritira tutte le copie di Ecstasy che ci sono in circolazione, alla signora Mandl non manca nulla, ma è sempre da sola, sorvegliata a vista dalla servitù. Se molte donne nobili si sono accontentate nella storia di dedicarsi a innocui passatempi nell'attesa del ritorno di mariti girovaghi, la giovane viennese, che una sprovveduta non lo è mai stata, cerca di approfittare degli incontri del marito per ampliare le sue pubbliche relazioni. Fritz mi ha sempre esposta come un trofeo. Usava le feste per fare affari, ma voleva sempre che ci fossi anch'io. Ma a me piaceva guardarli mentre fumavano sigari, bevevano whisky e parlavano di strategie militari. Se da un lato le frequentazioni della casa sono di altissimo livello, con i principi e la borghesia colta d'Europa, a volte nel salotto dei Mandl siedono personaggi pericolosi, come gli stessi Hitler e Mussolini. Hedy, perfettamente a suo agio, partecipa senza esprimere la sua opinione, ben inteso, alle conversazioni degli uomini. Soprattutto la appassiona il dibattito sul comando a distanza di missili e siluri. Ancora non può sapere, però, che tutto questo di lì a qualche anno le servirà davvero. Il matrimonio di facciata tra Hedy e Fritz continua fino al 1937. Ogni tanto, per la verità, lei tenta qualche rocambolesca fuga con lui che ogni volta rinforza la sorveglianza. Tra i due c'è un legame torbido, di forte possesso, troppo per una donna libera come lei è sempre stata. E così, mentre continua a ricevere preziosi gioielli dal marito, mette a punto il piano giusto per scappare. Una delle nostre cameriere si era licenziata e la dovevo sostituire. Ho fatto una ricerca accuratissima. Erano tutti impressionati dalla mia meticolosità. Ho esaminato molte candidate finché non ne ho trovata una che mi assomigliava sia nell'aspetto che nei colori della pelle e dei capelli. Sembrerebbe un film se non fosse un episodio reale. Hedy impara la gestualità di questa Laura e di nascosto si fa confezionare degli abiti da cameriera su misura. Parla con lei a lungo per scoprire le sue abitudini e quando la ragazza le rivela di dover incontrare il suo ragazzo che fa il soldato a Parigi di giovedì, capisce che ha fatto centro. Per varie settimane al giovedì mattina dorme fino a tardi, chiedendo di non essere disturbata per preparare il terreno. E al momento giusto mette del sonnifero nel caffè di Laura, le lascia dei soldi e si infila la divisa e parte. Una volta arrivata in Francia è sicura che anche al marito, per evitare lo scandalo, convenga un divorzio. Dopotutto ha bisogno di non attirare l'attenzione in modo da continuare indisturbato a fare affari con i nazisti. Mentre il tempo le dimostra che sul marito ha avuto ragione, la gatta dagli occhi verdi scopre che Parigi non è come se la ricordava nei suoi viaggi di bambina e decide di spostarsi a Londra. Ma il tuo destino ti raggiunge ovunque sei e nel caso di Hedy ha il volto di Louis B. Mayer, il boss della Metro Goldwyn Mayer, che è arrivato in Europa in cerca di nuovi talenti. A presentarglielo è un comune amico e l'incontro avviene nella sterminata hall di un hotel di lusso che lei può permettersi grazie alla vendita di un solo gioiello dei molti ricevuti dal marito. Il grande produttore di Hollywood la trova stupenda, ma è perplesso. Ha visto Estasi e ne è scandalizzato. Non è un film per famiglie americane. Segue un serrato botta e risposta tra lui che espone con parole molto chiare la morale ipocrita degli studios e lei che appena 23enne ribatte con l'esperienza di chi ha già vissuto molte vite. Il risultato è che ancora una volta è lei ad averla vinta, anche sulle condizioni contrattuali. Per 7 anni, a $500 la settimana, Louis B. Mayer farà di lei una star. Don't mean a thing. If it ain't got that swing, do I don't mean a thing. All you gotta do is swing. Do I makes no difference if that rhythm's sweet or hot. Give that rhythm everything, everything you got. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo nel 1937 e una giovane attrice viennese ha appena strappato un grande contratto al produttore di Hollywood Louis B. Mayer della Metro Goldwyn Mayer. Di cognome fa Kiesler, ma lui, che ha in mente di farla diventare una star, glielo fa cambiare. Sta per cominciare la nuova vita di Hedy Lamarr, che alle spalle, nonostante abbia solo 24 anni, ha già accumulato 1000 esperienze. Il teatro a Berlino con il regista Max Reinhardt, il primo nudo integrale della storia del cinema In Estasi, il matrimonio con un magnate dell'industria bellica che faceva affari coi nazisti. Così bella da essere sempre mostrata come un trofeo, ma dalla mente brillante e lo spirito libero, Hedy si è trovata in una gabbia dorata, controllata a vista dalla servitù, felice solo quando, durante le serate tra uomini, poteva ascoltare i loro discorsi su strategie e la nuova ingegneria bellica. Finché un giorno è riuscita a scappare travestita da cameriera. A Londra ha incontrato proprio lui, Mayer, e l'ha convinto a farla sfondare nel cinema americano. Non avevo certo vestiti brutti, anzi, ma Mayer ha voluto cambiarmi completamente il guardaroba. Eravamo ancora sulla nave, il transatlantico Normandy, E lui mi ha portato al ponte inferiore, dove c'erano i negozi più esclusivi. Quando sono scesa sulla costa degli Stati Uniti, avevo soltanto abiti di Dior e Chanel. Il tutto contenuto in un set di valigie di Louis Vuitton. Hedy Lamarr è molto sicura di sé e sa che può contare sul suo fascino e la sua intelligenza. Tuttavia il suo curriculum è cortissimo, piccole particine e il ruolo da protagonista in un film da molti considerato pornografico. Rispettando alla lettera le regole di Meyer, si impegna fin da subito a imparare l'inglese. Segue una dieta ferrea per allinearsi agli standard hollywoodiani e frequenta gli attori più famosi sperando di diventarne presto collega. Conquista tutti perché oltre che bellissima è sagace, virtù che non perde occasione di dimostrare quando risponde alle domande dei giornalisti. Una sera, mentre si sta un po' annoiando all'ennesimo party della settimana, il destino le offre una grande occasione. Walter Wanger, che ha già prodotto Ombre rosse di John Ford, ha acquistato proprio da Meyer i diritti per realizzare il remake di Il bandito della Casbah e le propone il ruolo della protagonista. Quando Algier, così si chiama il remake, esce nelle sale, è un successo e la trasformazione in diva di Hedy si vede in ogni fotogramma. Capelli scuri e ondulati, bocca disegnata, sopracciglia perfette. Le ragazze la imitano, gli uomini la adorano, i giornali celebrano questa donna che sembra una bambola, ma che in realtà bambola non è. Can you hear it? That's my heart beating. Does it go like a subway train? Faster. Nonostante l'entusiasmo di Meyer, i due film successivi sono un fiasco, ma generano pettegolezzi su pettegolezzi. La diva di porcellana si sposa con lo sceneggiatore Gene Markey e anche il matrimonio lampo a Tijuana, frontiera messicana, contribuisce ad alimentare il mito. Hedy, divina e un po' spocchiosa, recita con Clark Gable in Boomtown e in Comrade X di King Vidor. Ammira Sophia Loren, detesta Ingrid Bergman perché le ha soffiato il posto in Casablanca. Spesso i suoi ruoli sono quelli di una donna non esattamente morale, secondo i canoni americani, molto forte e molto erotica. Lunatica, attaccata al denaro per praticità, smaniosa di successo e intraprendente con gli uomini e con la vita. Ma Hedy Lamarr è anche molto altro. Estate del 1940, Los Angeles. Adrian, il costumista preferito di Hedy Lamarr, organizza con la moglie una cena a casa sua e invita, oltre all'attrice, un professore di musica della Stanford University che si è già prestato al cinema. Brillante, eclettico, sorprendente. Arriva in ritardo e si siede davanti a Hedy. I miei occhi bruciavano, ma non riuscivo a staccarli dai suoi. «Ecco la donna più bella del mondo», mi dissi. «La maggior parte delle regine del cinema non sono un granché quando le vedi in carne e ossa, ma lei sembrava infinitamente più bella che sullo schermo». Hedy, da sempre curiosa e attenta alle nuove scoperte, ha letto molti dei suoi articoli sulla rivista Esquire e non vede l'ora di fargli un sacco di domande. Ma ancora non immagina che l'incontro con quest'uomo sta per cambiarle la vita per sempre. Il suo nome è George Antile. George Antile. È una calda giornata di inizio luglio, anno 1900, quando il piccolo George nasce a Trenton, New Jersey, da genitori immigrati dalla Prussia orientale. Non bisogna aspettare molto per rendersi conto che ha un talento speciale per la musica. Si siede per la prima volta al pianoforte quando è soltanto un bambino e mamma e papà, desiderosi di assecondare le sue inclinazioni, lo mandano a studiare a Filadelfia. Non pensavo ad altro che a suonare. Mattina, pomeriggio e sera. Mi interessava solo quello. Ma a differenza di molti, per i quali lo studio è faticoso, per me era il massimo del divertimento. Precoce talento, carattere originale e gusto per la sperimentazione. Al giovane George non resta che tentare la fortuna in Europa, che negli anni 20 è in uno dei suoi periodi di massimo splendore. Le capitali culturali, Berlino e Parigi, lo accolgono a braccia aperte, interessate al suo particolare percorso creativo. Non è un musicista qualsiasi, ma un compositore ultramoderno, all'avanguardia, che inventa da zero macchine musicali di ispirazione futurista con cui suona titoli come Airplane Sonata, Mechanism, Morte delle macchine. Poco più che ventenne, si circonda di intellettuali e artisti incuriositi dal suo genio. Joyce, Picasso, Dalí, Ray, Hemingway, Stravinsky. Non è raro vederli sorseggiare un bicchiere di vino al tavolino di un caffè mentre chiacchierano animatamente. C'è un motivo se la sua autobiografia si chiamerà Bad Boy of Music, il ragazzaccio della musica. Untile, nella vita quotidiana, è mite e posato, mentre sul palco diventa una tigre che addirittura si diverte a provocare le risse tra gli spettatori. In totale, mette la firma a più di 300 opere, tra cui quello che viene considerato il suo capolavoro, Ballet Mécanique, realizzato con il pittore Fernand Léger, che con l'aiuto di Man Ray, nel 1924, diventa anche uno dei grandi film surrealisti. Mi ero inventato questo balletto, animato da 16 pianoforti meccanici sincronizzati. Era bellissimo, perché in quel periodo potevamo fare di tutto. Purtroppo però l'arte non mi ha mai fatto diventare ricco e a un certo punto ho dovuto scendere a compromessi. Il compromesso per Untile è tornare in America e incominciare a mantenersi con le cose che vendono, le colonne sonore per il cinema e gli articoli per Esquire e il Chicago Sun. Sempre in contatto con l'Europa, scrive molto di strategie di guerra e si occupa di endocrinologia, visto che è anche laureato in medicina. Ma la sua classificazione degli esseri umani in diversi tipi ormonali gli serve più che altro come pretesto per spiegare ai ragazzi tecniche di rimorchio. Un personaggio così fuori dagli schemi non poteva certo sfuggire a Hedy Lamarr. Qualche giorno dopo la cena, i due si rivedono da soli. Parlano soprattutto dell'Europa, che fa parte del passato di entrambi e che adesso è in piena guerra. Lei gli confida di sapere molto di armi, di avere imparato un sacco di cose quando era sposata con Fritz Mandl e dice che le piacerebbe aiutare l'America con il suo contributo. Untile non crede alle sue orecchie. Convinto come tutti di trovarsi a chiacchierare con una diva capricciosa, scopre invece una donna non solo intelligente, ma addirittura geniale. Per tutto il tempo persino suo marito l'ha considerata una bambolina, e invece Hedy è un gigante intellettuale. Recitare le piace, è vero, ma non è certo il suo unico interesse. George Untile, compositore di musica meccanica, e Hedy Lamarr, diva scandalosa di Hollywood, stanno per brevettare un'invenzione che cambierà il modo di comunicare. That's life. That's love. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June, I said that's life, that's life. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo nella Hollywood degli anni 40. Mentre in Europa è imperversa la guerra, gli studios sfornano film per distrarre gli spettatori dalla catastrofe mondiale. Hedy Lamarr, con l'aiuto del produttore Meyer e del suo fascino straordinario, è ormai una grande diva, per tutti la donna più sexy del mondo. Nel suo passato ci sono il primo nudo della storia del cinema e il matrimonio con un ricchissimo mercante d'armi. E ascoltando le sue conversazioni con altri uomini sulle strategie belliche, che ha cominciato a pensare di voler dare un contributo ingegneristico all'America. Mentre le altre attrici servono i soldati alla mensa per tenere alto il morale, girano di città in città per vendere obbligazioni con cui finanziare la guerra e scrivono lettere per il fronte, Hedy incontra George Untile, eclettico musicista d'avanguardia con passione per la meccanica, e a lui si mostra per quello che è, un genio della scienza dentro un corpo da bambola di porcellana. I due incominciano a lavorare insieme ogni giorno per settimane, tanto che Boschi, moglie di lui e nipote dello scrittore Arthur Schnitzler, è all'inizio molto gelosa. La capivo. Suo marito passava il tempo con me e le diceva che stavamo inventando un siluro radiocomandato. Chi ci avrebbe creduto? Ma invece era davvero così. George non le ha mai mentito e io e Bosky siamo diventate molto amiche. Gli ingegneri militari si stanno scervellando da anni per controllare i siluri via radio, visto che una volta lanciati la traiettoria non può più essere corretta. Deviati dalle correnti marine o per colpa delle manovre evasive, capita spesso che manchino gli obiettivi. E a questo si ovvierebbe con il controllo remoto. Solo che i segnali guida sono intercettabili dal nemico ed esposti ai suoi disturbi radio. Hedy Lamarr e George Antheil creano un sistema di comunicazione segreta, il Secret Communication System, rivoluzionario, basato sulla variazione simultanea, secondo uno speciale codice, della frequenza di lavoro di un ricevitore e di un trasmettitore opportunamente sincronizzati. Registrano il codice attraverso due rulli identici di carta perforata, simili a quelli usati nelle pianole, posti ai due capi del collegamento radio. Se in una pianola le perforazioni corrispondono a note diverse e di diversa durata, nel loro sistema corrispondono invece a differenti frequenze del segnale a radiofrequenza. In questo modo, i segnali possono essere trasmessi senza essere rivelati, decifrati o disturbati. E senza rendersene conto, lontano decenni dalla nascita dell'elettronica digitale, Lamarr e Antheil mettono le basi per la comunicazione senza fili. Il Frequency Hopping Spread Spectrum viene depositato all'ufficio brevetti il 10 giugno del 41, ma l'approvazione arriva l'11 agosto dell'anno dopo. Il numero di serie è il 292387 e la durata della tutela 17 anni. La Marina degli Stati Uniti lo bolla come inutilizzabile e una volta messo nel cassetto tutti se ne dimenticano. Gli stessi George e Hedy ci pensano ogni tanto, ma continuano la loro vita di sempre. Lui scrive e compone, ma beve anche molto. Morirà di attacco cardiaco nel 1959, nella sua casa di Manhattan. Lei recita, si sposa più volte e ha due figli naturali dopo averne adottato uno. Sempre di più al timone di se stessa, la signora Lamarr prova a fare la produttrice. Si rifà il naso già perfetto agli albori della chirurgia plastica e macina conquiste, da Charlie Chaplin a Billy Wilder, per arrivare al playboy Gianni Agnelli, di cui sarebbe volentieri diventata moglie. Avvolta in una gonna fatta di 1900 piume di pavone, interpreta il colossal Sansone e Dalila, fa pubblicità di sigarette e cosmetici e durante gli anni 50, triste e in declino, si mantiene con molte partecipazioni televisive. È ancora la bellezza superba che è sempre stata, ma si sta lasciando andare a una depressione che non può più controllare. Va faire bientôt deux ans que tu t'en fous. Siamo in piena guerra fredda e mentre George Antheil e Hedy Lamarr, ignari di tutto, scivolano verso la distruzione, gli ingegneri della Sylvania Electronic System Division di Buffalo riprendono in mano il loro brevetto. Dopo averlo giudicato inutilizzabile, lo rielaborano in gran segreto, perché è ancora sotto la tutela degli inventori, e lo usano sia per il monitoraggio radio dei sommergibili che per la guida degli aerei senza pilota. Poco dopo il fatidico scadere dei 17 anni di deposito, l'invenzione diventa di pubblico dominio. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. 1962, Cuba. Per 13 giorni il mondo guarda con il fiato sospeso il luogo in cui si sta decidendo il futuro dell'umanità. La Russia ha installato missili sull'isola e le navi americane sotto il comando del presidente Kennedy la circondano per bloccare le consegne di altro materiale bellico sovietico. L'esplosione del conflitto alla fine è scongiurata, ma un ruolo chiave l'ha giocato proprio la tecnologia brevettata dal musicista e dall'attrice. Se Antheil nel frattempo è morto, nemmeno Hedy si può godere la soddisfazione dei grandi inventori. La paternità del Secret Communication System non le viene ufficialmente riconosciuta. E lei trascorre una vecchiaia lontana da Hollywood, qualche volta serena, ma molto più spesso tormentata. Il suo volto ha ancora un fascino che rivela il suo passato glorioso. E lei, dopo una vita piena di amori, si ritrova da sola. Fino al 12 marzo 1997, il giorno in cui finalmente arriva la grande notizia. La Electronic Frontier Foundation conferisce a Hedy Lamarr e George Antheil il Pioneer Award per l'invenzione del Frequency Hopping Spread Spectrum. Il sistema, dice il comunicato, ha contribuito alla lotta al nazifascismo, allo sviluppo delle comunicazioni wireless e alla diffusione di queste tecnologie nella società. Contattata dopo essere stata dimenticata per anni dai media del mondo, Hedy si limita a rispondere: «Era ora». Non riuscivo proprio a capire perché a me e George non avessero ancora dato alcun riconoscimento, visto che quelle idee oggi sono usate in tutto il mondo. Mai una lettera, mai un grazie, mai un centesimo. Per fortuna questo premio è arrivato prima della mia morte. Hedy Lamarr si spegne il 19 gennaio del 2000, dopo una vita privata sbattuta in prima pagina e un cervello da scienziata a cui nessuno ha mai badato. Sia il Bluetooth che il Wi-Fi sono debitori delle idee rivoluzionarie della strana coppia Lamarr-Antheil. Forse è anche per questo che lei, in fondo, ha sempre pensato una cosa sola. I film possono avere il loro fascino in un certo periodo, ma la tecnologia è per sempre. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format